voglio ricucirmi un sorriso. Sai che faccio, stappo una bottiglia per brindare. Io non scappo dalle cose belle, piuttosto me le tatuo addosso. Voglio viverle, bruciare finché posso. Le lacrime spengono il fuoco e non ho tempo adesso. Voglio amare, stare male a tutti i costi. La donna che può farlo, la cerco in tutti i posti. E la trovo facilmente, ho sentimenti esposti. La tiro a me, perché siamo poli opposti. Amare è un'attitudine, ne siamo predisposti. Divampano le fiamme, un consiglio è meglio se disposti. E so com'è perdere la testa se ci sono i presupposti. Per qualcosa che assomiglia ad amori nascosti, ho facoltà di scegliere se essere felice o bruciare all'inferno come una fenice. Il mio cuore rinasce come la fenice. Innamorato dell'amore morirò felice. Il fuoco vive in me e lo incenerisce. E quando sembra spento lui mi tradisce. Odio l'amore e le sue mille sfumature. Amo questo cuore che dimentica le mie paure. Mi rimette in gioco, non spegne mai quel fuoco che vive dentro me, non è roba da poco. Robie da matti, non è per tutti quanti. Datemi amore, tenetevi diamanti. E qui ti scotti, sì, sono un vulcano. La mia bocca scalda quando sussurra ti amo. Il mio corpo ti devasta come l'uragano. La fenice t'avvolge se ne sente il richiamo. Perché amare anche farsi da parte quando proprio non riesci a farne parte. Indelebile rimane solo il nome inuntato sul corpo. A chi ha trafitto questo cuore lo vorrei morto. Scherzo senza di me come lo fosse. La regina fa scappare in quattro mosse. Il mio cuore rinasce come la fenice. Innamorato dell'amore morirò felice. Il fuoco vive in me e lo incenerisce. E quando sembra spento lui mi tradisce. Autografata da una stronza, ogni mia fenice brucia il nome della stronza. Conservo le ceneri in una teca di cristallo, mentre osservo che degeneri e cadi dal piedistallo. Sempre più splendente e meno coerente di quelle come te, frega meno di un cazzo, anzi niente. Perché dentro ardo e brucio di passione, tutte vogliono sto fuoco, sì, ma della redenzione. Vi cospargo con le ceneri della mia missione, dare tutto l'amore e rivederci la finzione. Arrivederci amore, aspetto che risorga la fenice. Nell'amore vero è l'anima che abbraccia il corpo, come dice Nietzsche. Ogni amore ha le sue fiammate, tu sei diversa se continua a sparare cazzate. Mentre reciti, regalami un sorriso, dai, dai, fuoco, la felicità in un gesto, basta poco. Il mio cuore rinasce come